Summertime di Elisabetta Fiorito. Buon pomeriggio, un pomeriggio pucciniano, sì, perché a Torre del Lago è in corso il Festival Pucciniano come ogni agosto, e un Ferragosto noi lo vogliamo dedicare al grande Giacomo Puccini. Perché? Perché questa sera va in scena la Turandot, e poi invece in questi giorni c'è anche in scena la Madama Butterfly, due eroine completamente diverse nell'ottica pucciniana, e abbiamo con noi i due diversi registi. Allora, Maurizio Scaparra è il regista della Turandot, iniziamo da lei. Che cosa vuol dire dirigere un'opera così composta e anche poi incompiuta, quindi è un po' difficile? Intanto buongiorno, sì, io sono contento che questa sera ci sia un'altra rappresentazione della Turandot, che io ho fatto già lo scorso anno, e io la reputo una grande fortuna, per rispondere a lei, perché intanto io sono innamorato di questa fondazione Puccini che porta in vita, un po' come Pesaro è per Rossini, una attenzione non casuale a questo grande musicista. Poi ho avuto la fortuna, sempre qui a Torre del Lago, forse lei lo saprà, di fare una fortunatissima bohème con le scene di Folon, che è andata in scena, ripeto, per sei anni. Perché dico questo? La fortuna è fare Turandot, e è come fare la e la z della parola amore per Puccini, il massimo dell'amore, della passione con la bohème, il massimo della tragedia con la parola amore, che è nella Turandot. Questa è stata una cosa che mi ha guidato durante la messa in scena della Turandot. Poi naturalmente c'è questa grande favola mista anche, come lei sa, di riferimenti alla commedia dell'arte italiana, ma in realtà è una grande favola che quella Cina è rappresentata in tutte le sue forze, anche visive. La fortuna di questa edizione di aver avuto un grande scenografo come Frigerio e una grande costumista come la Squarciapino, che è anche premio Oscar, ci ha aiutato a confezionare questo spettacolo nel migliore dei modi possibili. Oggi è difficile che anche per ragioni spesso economiche, che uno spettacolo venga gestito d'estate con la profondità con cui oggi due sole istituzioni, credo, quella di Puccini e quella di Rossini, fanno oggi in Italia. Per questo, ecco, è un grande onore. Allora io la interrompo perché appunto volevo dare la parola a Vivian Hewitt, la regista di Madama Butterfly, che è anche un'esperta pucciniana. Allora, Madama Butterfly è un'opera un po' diversa, sono due donne completamente diverse, Turandot e Madama Butterfly. C'è certamente, anche se ritengo che in realtà le due grandi opere simboliste di Puccini sono appunto Butterfly e Le Turandot, che guarda caso guardano tutti e due verso l'Oriente, sono un po' lontano dal naturalismo di una bohème o di una fanciulla del West che sembra quasi un film. Certamente per me è stata un'esperienza straordinaria mettere in scena questa Butterfly, perché ho un rapporto col Festival Pucciniano che dura da 27 anni, quindi tutta la mia vita professionale, e in cui ho vissuto vari ruoli all'interno del festival, ma da 97 praticamente quello del regista, no? E devo dire che fare questa Butterfly con un grandissimo scultore giapponese che è Kanya Suda è stata un'esperienza folgorante, perché è partito come idea di scolpire l'opera nel 2000, è partito come una scommessa, perché nessuno aveva mai pensato di fare una regia o una produzione a Festival Pucciniano che non fosse, diciamo, nel solco della tradizione. Siamo partiti un po' trepidante, e dopo molto silenzio zen e molto pensiero e molta attenzione, questo strano equip di produzione fatto di me, Kanya Suda e la stilista fiorentina Regina Schreker, abbiamo creato questa produzione che è un po' diverso rispetto alle cose che in precedenza si è vista a Festival Pucciniano. Quindi qual è la caratteristica di questa messa in scena? È molto minimalista, praticamente è una specie di sonne lumière in cui le luci vengono proiettate contro queste meravigliose masse di Kanya Suda, che in realtà in tutto l'opera ci sono solo 4 sculture, ma sono sculture che sono pregne anche di valori simbolici, che sono in qualche modo, che rappresentano l'anima e il passaggio di Butterfly da questo mondo all'altro mondo, e quindi il risultato è estremamente drammatico. La cosa che mi ha molto affascinato è che non solo la produzione ha resistito 10 anni, che oltre ogni aspettativa al festival normalmente la produzione dura 3-4 anni, però è una produzione che ha girato tutto il mondo e con immenso successo, e la cosa bella è che la gente ne esce dicendo che bella produzione tradizionale, e invece hanno visto 4 sassi e molta luce, molti colori, i colori che spero accompagnano in modo molto consapevole la musica di Puccini. Quindi è stata una scommessa di lasciare un palcoscenico di quasi 40 metri quasi vuoto, fuorché nel primo atto 2 sculture isolate con la luce, e poi nel secondo atto un solo scultore fino alla riva del suo compagno, che è una specie di specchio dell'altro, che formano 2 porti di transizione dalla vita di oggi, la vita nostra terrestre, all'altro mondo. Sembra una cosa un po' astratta, però per il pubblico che l'ha visto, e sono credo oltre 50.000 persone che hanno visto questo spettacolo ormai, anzi molto di più. Allora io la interrompo, perché intanto sentiamo un attimo Renata Tebaldi, no? Che canta Un bel dì vedremo, come abbiamo sentito all'inizio, Nessun dorma, interpretato da Giuseppe Di Stefano, e poi ritorniamo invece a scoprire qual è la scenografia della Turandot. Ma adesso di nuovo Madama Butterfly. Thank you. su questo acuto di Renata Tebaldi noi entriamo per parlare invece di Turandot. Maurizio Scaparro, com'è la scenografia? Abbiamo sentito Viviane Hewitt che ci descriveva questa scenografia minimalista di Madama Butterfly. Qual è stata invece la sua idea per la regia di Turandot? Io sono minimalista di mio, perché sarei per far sparire quasi tutto durante i miei lavori di teatro, di prosa, ma e anche di lirica. Nella Turandot pensavo ci potesse essere invece il sogno visto da Puccini, che è un sogno orientale anche lui, è un sogno dove si mescolano le conoscenze di una varietà della Belle Époque a quelle che sono invece le nostre visioni cinesi e o finto cinesi. È venuta fuori una ricostruzione favolistica dove il Liberty pucciniano rientra dalla finestra per affacciarsi in questa favola, che questa sì è stata costruita magistralmente da Frigerio, e dove anche i costumi, che sono splendidi, della Squarciapino, rappresentano un omaggio a una non verità cinese, ma una verosimiglianza favolistica, dove il Liberty la fa abbastanza da padrone. Ecco, rispetto invece alle eroine, no? Parliamo di queste due eroine che sono così opposte, scritte da uno stesso musicista, e è abbastanza particolare, no? Turandot è una donna molto gelida, molto fredda, una donna che ordina anche, no? Uccisioni. Come si può descrivere affinché il pubblico poi invece si identifichi in lei? Si parla di eroine e forse è giusto per la Butterfly. Per quel che riguarda la Turandot, io azzarderei la presenza di un doppio che è tragico, è la Turandot e Liu, e se devo mettere la parola eroina la metto accanto a Liu. Ecco, che è colei che muore per esatto. Non rivelare il nome allora, del principe. Dobbiamo usare il termine eroina. Ci accorgiamo che le due eroine non sono simili, ma possono accostarsi più facilmente, come non si può accostare facilmente Turandot alla Butterfly. Allora, ringraziamo Maurizio Scaparro proprio per questa descrizione di chi è l'eroina nella Turandot, è Liu, quindi il pubblico si identifica sicuramente con Liu e sicuramente si identifica però con Madama Butterfly, Vivian. La Butterfly è una donna, diciamo, governata dall'orgoglio e in questo senso è molto simile alla Turandot, solo che è infinitamente più fragile e quindi il suo orgoglio è sempre contrapposto a questa sua fragilità, che è il coinvolgimento amoroso con Pinkerton. Con questo, cioè, lei vive in un universo in cui si sente tradita dalla sua società che ha portato suo padre al suicidio e quindi sposa nella sua mente una società che lei crede sia meglio, solo per scoprire che è tutta un'illusione. È una spiegazione molto molto pertinente e soprattutto molto azzeccata. Io ringrazio Maurizio Scaparro e Viviane Hewitt. Abbiamo sentito i registi di Turandot e Madama Butterfly al Festival Pucciniano. Consiglio a tutti di andare a Torre del Lago, perché è un weekend veramente all'insegna del grande maestro. Si apre quindi giovedì con Turandot oggi, venerdì 13 Tosca, altra eroina, scusate, io parteggio un po' per Tosca, essendo tosca romana, perdonatemi questa debolezza, e sabato 14 Madama Butterfly. Grazie. Arrivederci. Summertime. Beh, c'è una cosa che tutto il mondo ci invidia e noi lo sappiamo che cosa sono: le colline toscane. E a proposito di colline toscane, adesso noi andiamo addirittura nelle Crete senesi. Beh, che cosa c'è di meraviglioso, così meraviglioso al mondo? Noi ce l'abbiamo, noi in Italia ce l'abbiamo. E queste Crete senesi ospiteranno per il quarto anno Out Out, micro festival dei teatri incondizionati. Un festival che sarà in scena fino al 15 agosto, proprio per finire a Ferragosto. Durante questo lungo weekend di mezza estate, Giada Prandi è l'organizzatrice del festival. Tante tante novità quest'anno. Ciao, ciao. Allora, innanzitutto ti volevo dire che quest'anno faremo tutte le sere uno spettacolo alle 21:30 nel Teatro della Granza, che è uno dei teatri più piccoli d'Italia, da cui prende spunto poi, insomma, tutta la nostra manifestazione. Il comune? Allora, il comune è Montisi ed è uno splendido borgo medievale in provincia di Siena, ed è veramente bellissimo, è un borgo medievale stupendo, una cornice fantastica, e questo teatro è proprio un gioiellino, pensa che è uno dei teatri più piccoli d'Italia, quindi è proprio in miniatura. Quanti posti? A tutto, a 52 posti. E che se praticamente le persone vengono non entrano, che fate? E le persone, guarda, noi di solito facciamo anche eventi fuori, nel senso che il festival nasce dalla dimensione del piccolo che ci ha suggerito questo teatro, che ha questa peculiarità, però poi si espande, no? Quindi il piccolo è in crescita, quindi poi ci sono eventi dentro ed eventi fuori il teatro. Gli altri anni avevo sempre fatto uno spettacolo nel teatro e uno in piazza e delle performance nella strada e in altri luoghi. Invece quest'anno faremo solamente uno spettacolo in teatro e delle performance di musica e di danza dal vivo alle 20, perché facciamo una degustazione aperitivo con i prodotti tipici enogastronomici del luogo. Che sono tanto cattivi, no? Immagino. Che sono buonissimi, sono dei salumi fantastici. Salumi fantastici, pecorino, sì. Vai. Pecorino, scienza, perché abbiamo queste aziende agricole che proprio ci sponsorizzano gentilmente. Ti dico, quest'anno facciamo una cosa solo in teatro, perché noi siamo una realtà indipendente che si finanzia da sola. Ecco, tutti i problemi che la cultura ha quest'anno, non siamo riusciti ad avere molte sovvenzioni, e quindi con le sovvenzioni che abbiamo avuto riusciamo ad avere tutti i spettacoli di qualità, perché per noi questa è, diciamo, la cosa fondamentale. Tutti i piccoli riconoscimenti che abbiamo avuto negli anni sono stati per ciò che abbiamo scelto, per quello che abbiamo messo in cartellone, però non riusciamo a fare di più, perché fare un palco anche nell'altro paese, cioè, è troppo dispendioso, capisci? E purtroppo la cultura in questo momento storico non è aiutata, quindi... E certo, no. Allora, certo. Voi iniziate con questa sera alle 21:30, come hai detto te, nel Teatro della Grancia, con uno spettacolo un po' particolare. E questi sono gli articoli 31 che noi abbiamo preso come spunto per introdurre questo spettacolo nelle crete senesi, Ragazza in Erba, un monologo scritto da Alessia Bellotto e Beppe Casales, che proprio parla di un qualcosa che noi, insomma, conosciamo per sentito dire attraverso le canzoni, assolutamente, che è un po' la cannabis, no? E viene interpretato poi da la stessa autrice e da Paolo Civati. Insomma, Alessia, di che cosa parla questo monologo? Ragazza in erba perché fuma la cannabis, questo è in sostanza. Sì, ma vabbè, parla ovviamente della cannabis, diciamo, preso spunto, no, ci tenevo a dirti che in realtà Paolo Civati fa la regia poi di questo spettacolo, parla della cannabis, ho preso spunto da un accidente che capitò a una mia amica, poi da lì ho studiato circa 2 anni, perché comunque quando parli di un argomento cosa come è la successo? Cannabis, insomma, è un argomento abbastanza delicato, per cui non è un inno a facciamoci lo spinello, ma è aprire delle problematiche di riflessione. Sia sulla cannabis come intesa come droga, ma anche sul fatto che se tu pensi che negli anni 50 eravamo la seconda potenza mondiale a livello di canapa sativa e poi nel 1961 è stata firmata una convenzione unica che proveniva unica sulle sostanze stupefacenti che proveniva dagli Stati Uniti, per cui non ci sono più coltivazioni di canapa in Italia, nel senso che per me la cannabis, la canapa è una pianta ecologica, insomma, quindi alla fine è anche uno spettacolo ecologico. Parte dal piccolo, cioè dall'accidente che capita a questa Sara Fiorentina, che appunto viene beccata mentre va in vacanza con 9 grammi di hashish, si pone delle domande sulla legge Fini-Giovanardi, che appunto è una legge che è anticostituzionale di per sé, visto che venne firmato un referendum nel 93. Sì, ma 9 grammi però sono un po' fuori, no? Come sì, quantitativo. Sì, no, 9 grammi sono tanti, però sai, la cosa incredibile studiando poi questo, che da un punto di vista scientifico anche la dose minima che viene calcolata, 0,25 milligrammi di THC come dose minima drogante, e i medici dicono non ha un effetto farmacologico, quindi non si capisce bene. Vabbè, insomma, tu contesti un po' questo proibizionismo, questo ma sai, è in no, sostanza. Io anche io contesto proibizionismo perché, insomma, la storia del proibizionismo americano degli anni 30 ci insegna che qualsiasi cosa che non sia tutela dello Stato è in mano alla mafia. Insomma, abbiamo sotto gli occhi questa cosa qui su più argomenti, che sia la prostituzione piuttosto che la droga. Pensa che nel Messico, insomma, la droga ha fatto più di 80.000 morti in un anno. Sì, vabbè, sono... insomma, e qual è la tua conclusione di questo monologo? Ma in realtà la mia conclusione è quella di porsi delle domande, da dove vengono, nel senso che poi la legge appunto antiproibizionista sulla marijuana, perché poi anche lì bisogna fare una distinzione tra la marijuana e gli altri tipi di droghe, questo è sicuro, però venne fatta per degli interessi economici di pochi, è che spesso questa cosa non si sa. Ricordiamo poi che ci saranno venerdì 13 agosto Zitto, effetti retroattivi di una sincerità mal gestita, Alexis o il trattato della lotta vana, sabato, e infine patologica confessione di una mente farraginosa, sempre comunque al Teatro della Grancia. Abbiamo sentito nelle crete senesi per Out Out. Grazie. Grazie a te, ciao. Appuntamento a Montisi. Noi vi assicuriamo, non sono le sirene di Ulisse, no, no, no, non sono le sirene di Ulisse, né tantomeno la musica dodecafonica che anche ci ha fatto discutere. No, sono i suoni perduti di Velia, perché questa sera uno spettacolo un po' particolare, devo dire un po' suggestivo, in provincia di Salerno, quindi insomma Ulisse ci sta tutto, cercherà di scoprire come si viveva nell'antica Roma, nell'antica Grecia, di viverne i suoni, le danze, di ascoltarne le aree musicali, queste sirene, le sirene di Ulisse, e di capire quale percorso poi, guardando al nostro passato, ha fatto la musica nella storia. Roberto Merini, è così? Io vi sto parlando da un posto magnifico, mi spiace voi che state a Roma, qui sto sotto la rocca di Velia, in riva al mare, di antica Elea, e le sensazioni sono tantissime, noi cercheremo stasera di tirar fuori anche quelle musicali. Le musiche dell'antica Roma, dell'antica Grecia, le musiche di Omero, le musiche di Virgilio, e allora le musiche, quelle che ascoltavano gli antichi romani. Queste sono le danzatrici di Nerone, Roberto? Sì, anche, fra l'altro, certo. Ma noi immaginiamo visivamente tutto il mondo antico un po' bianco, no? Meravigliosamente e stupidamente astratto bianco, quando invece la ricerca contemporanea sull'antichità ci fa capire quanto fosse colorato. Basti pensare per esempio al Tempio di Iside, che noi ce lo immaginiamo e lo vediamo bianco, invece era coloratissimo. Lo stesso per i suoni, noi siamo ormai abituati da anni di documentari in cui sentiamo il rumore del vento, i silenzi, certo affascinanti, a cui siamo molto affezionati, però ci picchia, oppure per Bacco si potrebbe dire che sta proprio a pennello, in questo caso per Bacco, qui in un posto antico come qua, come Velia, c'erano suoni, c'era la vita, c'era la musica, quindi tutto un mondo che è stato finora poco studiato, ma che con la nuova disciplina archeologia musicale noi cerchiamo di tirar fuori, è pieno di fascino, è pieno di cose bellissime da scoprire. Questa sembra un po' Salomene, la danza dei sette veli, no? Sì, infatti lo spettacolo di stasera prevede anche ampi spazi di danza e di costumi, di suggestioni. Sarà una grande proiezione su un mega schermo di iconografie autentiche dell'antichità che vengono da Pompei, da Roma e anche dalla Magna Grecia, visto che il posto è qui, siamo vicino a Pestum, quei meravigliosi dipinti scavati dal professor Mario Napoli, che ha fatto anche gli studi importanti qua a Velia, la famosa Porta Rosa, e su queste iconografie reali si mescolano gli attori e i musicisti veri, carne e ossa, che incarnano la musica ricreandola con la sensibilità di oggi, ma su basi filologiche, su basi scientifiche. Quindi qualcuno con la firma di un imperatore tipo Nerone quando suonava la cetra, no? Nerone abbiamo un sacco di iconografie, poi lui si rappresentava come Apollo, e quindi... Ma tu hai imparato a suonare la cetra nel frattempo? Ma lui si portava dietro la clac, quindi era il più grande chitarrista del mondo, lui diceva. Ma mi ricorda un premier con un cantore, sempre napoletano, sempre campano, no? A certi politici di oggi, no? Che compongono, suonano, cantano, e quindi già Nerone lo faceva. Quindi... L'archeologia dei suoni perduti questa sera a Velia, nello storico anfiteatro, alle ore 21, per conoscere proprio l'archeologia musicale. Tu sei docente musicale del Conservatorio conservatorio di Trento, tra le altre cose. All'università, per la verità, l'idea è nata al conservatorio, ma adesso c'è l'unica cattedra italiana proprio di archeologia che si occupa di musica, archeologia musicale all'Università di Trento. Da Trento a Salerno, questa sera l'appuntamento è a Velia, ore 21 all'Anfiteatro. Grazie Roberto. Grazie a voi, a presto. E con i suoni dell'imperatore Tito, magari di Cesare o magari di Marco Antonio, mentre incontrava Cleopatra, non sappiamo, quei suoni rievocati questa sera a Velia, in provincia di Salerno. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia, Gloria Guerrera in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere a summertime@radio24.it o che potete riascoltare la puntata sul nostro sito www.radio24.it e vedere che cosa accade in serata. Per quanto mi riguarda, buona serata a tutti.